puntuali con il Voltiamo Pagina, i contenuti sono diversi, con ospite in seguito in diretta telefonica, intanto già presente in redazione con noi Super Mattiniero, e sentiremo se ha fatto i compiti anche per questa sua seconda puntata. Intanto do il buongiorno a Lorenzo Pauri. Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno Lollo, hai fatto i compiti? Sì, sì, anche sto giro i compiti li ho portati a casa, anzi li ho portati in radio. Giornata d'estate, si può dire, bel tempo, traffico, col tuo potente mezzo di locomozione, come l'hai trovato? Scorrevole? Sì, sono chiuse le scuole, ma comunque il bolognese si sveglia presto, lo vedevo girare. Già mattiniero. Magari all'ascolto del Breakfast Club. Iniziamo allora salutando Silvia Albertazzi, in vacanza a Vancouver, ti ha lasciato degli incarichi, tra l'altro anche a quanto pare, dopo chiacchiere fuori onda, piacevoli. Hai portato un altro lavoro che ti ha colpito positivamente, a quanto pare, Lorenzo. Sì, sì, ringrazio Silvia Albertazzi e oggi porto un libro che mi ha dato lei, infatti anche il libro dell'altra volta e il libro che porterò il prossimo mercoledì. E questo romanzo si intitola I ricordi degli altri e parla di questa ragazza, Anna, che vive a Parigi, è tratto da una storia vera, infatti parla di lei e della scomparsa prematura di suo padre quando lei aveva soli 6 anni, e suo padre tra l'altro è Luigi D'Urso, è stato un giornalista, inventò anche un'agenzia di comunicazione e lanciò in Francia la moda dei mocassin à picot, tra l'altro, piccola curiosità. E niente, il libro parla di questa ragazza vivace che all'età di 6 anni perde già il padre e inizia a vivere questo rapporto con la morte, con la mancanza di una figura così importante. Con il lutto. Sì, e a costruirsi e a costruire. Perché si chiama I ricordi degli altri? Perché lei, tramite questa analisi di se stessa, di quello che vive e soprattutto dell'ascolto degli altri, ricostruisce quello che era suo padre e vediamo in lei la costruzione di due strade. Da una parte il suo vittimismo, il suo un po' il mondo me la deve questa gioia, io ho già sofferto, ho già dato la mia parte del mondo. Si sente a credito, sì, con il mondo. Sì, si sente a credito ed è incredibile anche la descrizione che fa a 6 anni, perché tutto appare descritto dall'alto della sua età, però quando... L'alto della sua età, intendo 24 anni, è giovane, e mi è piaciuto infatti leggere di una mia coetanea per i parallelismi con la musica, ogni emozione filtrata attraverso una canzone. Ha dovuto maturare in fretta. Sì, sì, sì, decisamente. E come stavo dicendo, lei quindi vive questa dicotomia tra il vittimismo e invece tra il sentirsi in colpa di non aver vissuto il padre, di non poter neanche, tra virgolette, sfoggiare quell'orgoglio di avere un vuoto, un cratere così grande, perché lei l'ha vissuto troppo poco. A volte si sentiva anche in colpa, doveva comportarsi benissimo perché il padre da lassù lo vedeva. E piano piano invece scopre che questa figura che ha idealizzato, questa mancanza che ha creato affetto, questo eroe che ha trasformato, invece è un essere umano con tantissimi difetti che la manderanno anche in crisi. Di questa figura descritta particolarmente bene da Violette Russo, tanto da meritarsi gli onori di Harry De Luca, noto scrittore anche che tutti conosciamo, poco certo, tempo fa al Salone del Libro di Torino, e questa ragazza non mi è piaciuto di questa ragazza, della costruzione del personaggio, che ascoltava un po' solo se stessa, si circondava solo degli amici che avevano attraversato il suo dolore perché gli altri non la potevano capire. E molto autocentrata. Molto autocentrata, esatto. E la parola decisamente corretta. E quindi lei, attraverso le sue sorelle, sua madre, le persone che incontra in questo viaggio itinerante, perché suo padre era una persona facoltosa, una persona d'arte, immersa nell'arte, che viaggiava molto, quindi lei si sposterà. Lei è francese, il libro è ambientato in Francia, però ha origini italiane. Il padre della Costiera Amalfitana, di una famiglia facoltosa. Sì, dal cognome già si intuisce. Sì, sì, effettivamente. E quindi lei girerà, andrà a Roma, conoscerà amici del padre che le faranno vedere questa figura che le distruggerà completamente, la sua visione andrà in crisi, attacchi di panico, questa sofferenza che porta sulle spalle nel suo fisico, e che pieno di traumi, malattie, poi questo percorso, il medium e tante altre cose che poi si scopriranno leggendo e che non voglio assolutamente spoilerare o svelare. Hai portato anche alcuni brani in colonna sonora che ascolteremo. Intanto ricordo che giustamente hai fatto la scelta, visto la bella esperienza che stai facendo, di tenere i libri che ti sono stati assegnati. Allora mettiamo in premio un lavoro di un grandissimo scrittore olandese, scrittore e poeta. C'è S. Noteboom, Il canto dell'essere e dell'apparire. Sentite solo queste due righe che per me rappresentano perfettamente il contenuto. Vincere non è niente, ragazzo mio. Vincere non lascia tracce. Sì, è una soddisfazione, ma ricordati, perdere è vivere. Sì, è un libro per Iperborea che mette a confronto lettore e scrittore ed è un continuo dialogo molto serrato. È un libro di poche pagine, sono poco più di 120 pagine, dove troverete motivo dialogico in generale, non unicamente con C.S. Noteboom, che già di per sé è un grande autore, secondo me, anzi per me è lo scrittore olandese vivente più talentuoso, ma anche un motivo di percorso e studio, introspezione tra la lettura e la scrittura, e infatti è il canto dell'essere e dell'apparire per Iperborea, quindi avrete allo stesso modo un bel premio dal Voltiamo Pagina, eh? Allora, partiamo con il primo brano in playlist che presenterai. Sì, grazie mille, perché nel libro compare la figura della madre che dà l'anima a questa figlia, le fa capire con piccoli gesti che ci sarà, che sarà sempre presente a proteggerla, questo con una scena in cui si aggrappa a un cavallo, a un pony cui era sopra lei, che impazzisce, la madre rimane attaccata e la figlia dice: lì ho capito che mia madre avrebbe dato l'anima per me. E quindi ho voluto raccontare la morte del padre con questa canzone bellissima di Bruno Risas dal punto di vista della madre. Bruno mio, dove sei? Scusami se ti chiamo sempre, che senza di te non riesco a combinare niente. I figli sono peggio di te, sempre fuori, sempre in movimento, fanno sogni più grandi di me, che lo ammetto a volte mi lamento. Il punto è che mi manca trovarti addormentato alla TV, cercarti fuori dalla chiesa, andare insieme a fare la spesa, le sigarette sul comodino e il cruciverba poco più in là. Mica l'avevo capito che era quella la felicità. Ma com'è ingiusto il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata, certo meglio di me, che non so neanche ridere senza di te. Bruno mio, ma lo sai che i nipoti stanno crescendo, ogni tanto mi chiedono di te, se dal cielo tu li stai guardando, e ogni sera cento Ave Maria, quel rosario lo sto consumando, e mi sento una bambina anch'io quando sogno che mi dormi accanto. Perché non è facile sapere che non tornerai mai più, che questa casa enorme ha poco senso se non ci sei tu. Su questo vecchio divano guardo una foto e non lo ammetterai, mi amato da sempre anche se non me l'hai detto mai. Proprio assurdo il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata molto meglio di me, che non so neanche vivere senza di te. Beh, lo conosco solo di nome questo autore, però indubbiamente la canzone, pensando alle tue parole di presentazione del lavoro, al voltiamo pagina, è indubbiamente una colonna sonora molto molto emozionante e azzeccata. E quindi hai promosso questo libro a pieni voti, o quasi, si può dire. Si capiva così tanto. Si capiva sia dalle tue parole e anche dal contenuto. In questo contenuto, che tra l'altro vede una protagonista che ha delle caratteristiche, se vogliamo, anche abbinabile alla protagonista del libro che presenterò tra poco insieme all'autore Nando Mainardi. Allora, intanto precisiamo anche la casa editrice. Strade Blu. Molto prestigiosa, fra l'altro, pubblica molto, è particolare, è una collana molto intensa, dà spazio a delle voci molto coinvolte in una letteratura personalizzata, ma allo stesso tempo di divulgazione per l'emozione, la qualità e il talento letterario. Mi piace molto la collana Strade Blu. E tra l'altro pubblica anche fumetti, pubblica lavori di grafica e insomma in maniera totale porta letteratura di qualità. Beh, è un libro di dimensioni, perché diamo anche una parte logistica, si legge in maniera scorrevole. Molto scorrevole, non ci sono parole troppo complicate da dire, cavolo, lo devo cercare sul dizionario, mi son perso. E qui si legge sciolto, tutte parole semplici, e a volte è molto più difficile scrivere con parole semplici argomenti complicati. Bravo, e soprattutto mantenere una trama anche semplice, piuttosto che fare dei plot letterari, portare cose semplici, perché ricordate che i grandi uomini hanno bisogno di cose piccole e viceversa. Anche questo non l'ho detto io, non ricordo, però la citazione è dovuta in questo caso. Il titolo? Il titolo I ricordi degli altri. I ricordi degli altri, beh, ovviamente anche il titolo ha grandi attinenze alla narrazione appena presentato. Allora, ci sono i ricordi, ma oggi il quiz posso portarlo per quanto riguarda poter assegnare il lavoro di CS Nutboom, perché ricordiamo che il lavoro appena presentato da Lorenzo, giustamente vista l'esperienza che sta facendo con il Voltiamo Pagina, ci terrebbe ad averlo nella sua biblioteca. E ti capisco assolutamente, però non sentitevi con un premio di serie B, perché il canto dell'essere e dell'apparire di CS Nutboom è di grandissima qualità. Andiamo al cinema allora, sia con questo titolo I ricordi degli altri. Cosa vi era invece degli altri in un noto film che parlava di caduta del muro di Berlino, era ambientato nella Germania Est? In questo caso abbiamo I ricordi degli altri, ma per quanto riguarda, è un quiz semplice, cos'era degli altri in questo lavoro al cinema, che tra l'altro ho trovato bellissimo, in cui si parlava della Stasi, della Germania Est, in un momento difficile di caduta del muro, le due Germanie che si ritrovano. Cos'era? Era, non erano i ricordi, ma erano le... Esattamente, Luigi, le vite degli altri. Grazie, sei arrivato subito. Dino, un pochettino dopo al secondo posto, però Luigi è da tanto che non riesce a portarsi a casa un lavoro editoriale al Voltiamo Pagina, e quindi ne sono ben contento. Arriva la risposta esatta anche da Dino, anche da Paola. Paola, ti ricordo che da oggi hai a disposizione il lavoro vinto lunedì. (Ride) Me l'aspettavo da Luigi. Ha scritto in maniera molto sportiva, Dino. Siete i super campioni, quindi insomma. Esattamente Le vite degli altri, un film bellissimo. Ringrazio anche Paolo che ha scritto al 333-180-9494. Bene, diamo anche qualche altra indicazione per quanto riguarda il lavoro I ricordi degli altri. Invece, di questa autrice ci puoi dire qualcosa di più, Lorenzo? È il primo libro. Opera prima, a 24 anni. Giovanissima. Sì, davvero. Mi ha colpito tantissimo, come dicevo prima, leggere un libro di una mia coetanea, infatti. E, 24 anni, primo libro, come dicevo. E inoltre ha vissuto questa scrittura del racconto di questo padre, trasformando un po' quella che ha vissuto lei realmente. Le è servita come sfogo, come mezzo per sfogare ciò che ha vissuto. Infatti ha detto in un'intervista che grazie a questo libro è riuscita ad andare avanti. Ha aiutato molto la scrittura, sì, sì. Come capita a volte. Ti è venuta voglia di scrivere anche a te, Lorenzo? Secondo me il talento c'è. Staremo a vedere. Intanto Luigi scrive: ma io partecipo per stare in compagnia. Sì, è un po' come chi ha il figlio a scuola che prende tutti 9 e 10 e poi quando parla con gli altri genitori dice: ma no, i voti non sono importanti poi alla fine, finché ha 9 e 10 sì, è sì. Facile, vorrei vedere se avesse 3 o 4 come sì, me sì. No, bando a queste ceglie e facezie, grazie per la partecipazione a Paola, a Dino, a Paolo e Luigi, che per oggi è il nostro vincitore. Il canto dell'essere e dell'apparire. Complimenti Luigi, porti uno scrittore, c'è Snotboom che se non conosci veramente ti verrà voglia di seguire anche in altre pubblicazioni per Iperborea. Restiamo a tema, però hai portato un altro brano che ascoltiamo, è Nick Parry. Tranquil Moncur. È dedicato al cuore della protagonista. Ça débat sans prévenir, comme on cache un soupir. Souvent, du mal à retenir. De toute façon, je sais pas mentir aux gens. Sono sono tutti brani contemporanei questi scelti da te, Lorenzo. Sì, sì. Sì, sono tutti d'epoca recentissima, se non che attuale. Ah, ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che hanno partecipato che c'è anche il libro nella seconda parte del Voltiamo Pagina, quindi non arrendetevi, ma so bene che siete molto pacificamente agguerriti per quanto riguarda avere la pubblicazione presentata al Voltiamo Pagina. Di nuovo un quiz legato al cinema, ammetto, un po' più difficile. Sì, condivido quello che hai scritto. Oggi molta Francia, è un ricordo, un saluto a François Hardy che fece sognare quelli della mia generazione. Sì, grazie Luigi. Mi unisco a te a questo saluto. Siamo arrivati al termine di questa prima parte, abbiamo anche un altro brano che lo mettiamo così in anticipo della pubblicità. Hai un altro libro da portare, se non mi sbaglio. Sì, un altro compito in classe. Del resto, com'è, gli esami non finiscono mai, eh? Sì. E noi ne siamo ben contenti, perché oltre ad aggiungere tanto entusiasmo è una qualità letteraria ben presentata dal nostro Lorenzo Pauri. Grazie. A Rimini tutto bene? A Rimini tutto bene, scorre questo vento, c'è il sole. Ci sono state delle giornate un po' uggiose col caldo, però il grigio si crea sereno, la sereno variabile. Però, esatto, sereno variabile. Ok, turismo sta incominciando. Ni. E chiudiamo con questo brano di The Andrew Sisters, che non conosco. Sono andato a riprendere gli anni 40. Ah, in questo caso facciamo un salto indietro. Sì, sì, perché ne parla nel libro. Dice che l'aiutava Coca e Rum, questa canzone degli Andrew Sisters, l'ha aiutata durante i funerali del padre all'età di 6 anni. In questo momento di grave mancanza è un'elaborazione del lutto, è un dialogo con se stessa alla ricerca di quello che a soli 6 anni è venuto a mancare. E non potete immaginare, concludo con esperienza personale per chi ha vissuto queste tragedie, come con il passare del tempo si invecchia rispetto al genitore e ti ritrovi un ragazzo nell'immagine sulla lapide o sulla sepoltura, ti trovi un ragazzo e ti viene voglia di proteggerlo, non sei più interrogativo nei suoi confronti, diventi improvvisamente protettivo, ti viene voglia di restare accanto, pensi sia solo, pensi abbia freddo d'inverno e troppo caldo d'estate, perché vedi un ragazzo più giovane di te, con sogni e speranze, con il quale magari volevi condividere i percorsi, non diventa più un motivo di interrogazione o di qualcosa che certo resta sospeso, ma con il passare del tempo anche tutto ciò continua con una crescita diversa. Beh, come ben vedete, per il distacco i motivi di dialogo con se stessi e con la figura mancante sono veramente infiniti. Scusate, non volevo intristirvi, quindi mettiamo The Andrew Sister e vi offriamo a colazione un Coke Room. Mamma mia, aiuto, carico. Partenza carica. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave. every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, both down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach, all night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. E di nuovo voltiamo pagina, 8:34 minuti, libri a colazione, oggi con l'autore in diretta telefonica, una voce che già avete conosciuto e che magari ritroviamo in questo momento e ritroverete, perché Nando Mainardi per Radio Città Fujiko resta l'enciclopedico per eccellenza. Buongiorno Nando, bentornato. Ciao, ciao Willy. Ciao, ciao. Grazie per tutte le rassegne stampa, una voce fondamentale per la critica giornalistica all'interno della parte di informazione dei 103.1. E mi sono ritrovato, Nando, pochi giorni fa, scorrendo le nuove uscite letterarie. Ho detto, ma è il Nando Mainardi che conosco. A quanto pare sì, perché dopo aver avuto questa anticipazione mi sono ritrovato in redazione il lavoro La ragazza occitana, vita movimentata di Dominique Boschero. Mi sono buttato subito nella lettura e ho trovato l'aspetto di Nando, oltre che enciclopedico, anche foriero di grande emozione. Nando, la vita movimentata di Dominique Boschero, come ti è venuto in mente portare questa biografia a una figura di cui darai poi descrizione? A te la parola. Ecco, appunto, mi interessava in un qualche modo provare a rispolverare questa figura. Dominique Boschero è stata un'attrice piuttosto nota in Italia e in Francia negli anni 60 e in parte dei 70, e a un certo punto è sparita, non lasciando più alcuna traccia di sé, se non le notizie risalenti a quegli anni, gli anni in parte della Dolce Vita, qualche intervista sui rotocalchi, apparizioni in tanti film di genere, di carattere commerciale, leggeri, ma mi ha sempre dato l'impressione di essere una figura diversa rispetto allo stereotipo, diciamo, da stangona, da cinematografo che poi aveva incarnato nel corso della sua carriera artistica. Ed effettivamente Dominique Boschero, perlomeno nella mia impostazione, diventa un po' un veicolo per raccontare a loro volta storie dimenticate e sepolte, non soltanto legate al mondo cinematografico, ai tanti film che ha interpretato, i film mitologici, le commedie con Tognazzi e Chiari, i thrilleroni, sì, film western, ma anche vicende di carattere politico, perché sorprendentemente Dominique Boschero si è trovata al centro di alcune vicende politiche nel corso della seconda metà degli anni del Novecento, e di cui in qualche caso è rimasta pure vittima. Ecco. Sì, in effetti lei si lega a movimenti marx-leninisti, a percorsi insomma alternativi, ma che in quel periodo avevano un'importanza fondamentale. Ti ho interrotto, scusa, volevi portare un esempio delle conseguenze a questi suoi legami? Sì, ecco, l'esempio più eclatante in un qualche modo che la riguarda è proprio legato alla fase di sua maggiore fama. Ecco, oggi il nome di Dominique Boschero dice poco, ma nella prima metà degli anni 60, per un breve periodo, è stata l'attrice in Italia più pagata. La stessa Sophia Loren la indicava come la figura emergente tra le giovani attrici. Sono gli anni in cui lei si lega a Claudio Volonté, il fratello minore di Gianmaria Volonté, e viene in un qualche modo travolta dalla vicenda del Vicario. Vicario era ed è un testo teatrale di un drammaturgo tedesco, Rolf Ockhut, che viene rappresentato in Italia nel 1965 e diventa un caso esplosivo, poiché quel testo, che poi ha ispirato anche un film più recente, Argentino Amen, si basa sulla denuncia della complicità tra le gerarchie vaticane e il nazismo ai tempi appunto di Hitler. È un testo che viene rappresentato in tutta Europa, che desta scandalo, ma in Italia diventa esplosivo per la presenza del Vaticano, certo, perché al governo c'è la Democrazia Cristiana. Viene rappresentato da una compagnia al Teatro Scelta, capitanata da Gianmaria Volonté, e addirittura il giorno della prima, che si tiene in un piccolo teatro ricavato da una chiesa sconsacrata, la rappresentazione, di fronte peraltro alla stampa anche internazionale, viene impedita fisicamente dalla polizia, che ferma fisicamente gli attori. E si crea un gran certo casino, ecco, gli attori si asserragliano, occupano il teatro, la polizia blocca a sua volta tutti gli ingressi per alcuni giorni per impedire in tutti i modi qualsiasi possibilità di rappresentazione. Qualche giorno dopo questo evento un ordigno esplosivo viene lanciato contro un palazzo del Vaticano, avviene in piena notte, fa ingenti danni, ma non c'è nessuna vittima, e di quel gesto viene accusato proprio il compagno di Dominique Boschero, Claudio Volonté. Cosa c'entra in tutto questo Dominique Boschero? È che Claudio Volonté indica la Boschero come il suo alibi. Dice: quella notte eravamo assieme nella casa di Dominique. Viene messo sotto torchio in un clima intimidatorio Claudio Volonté, ma a un certo punto viene prelevata anche sul set mentre sta girando un film a Cinecittà la Boschero, e a sua volta viene torchiata dalla polizia. E la Boschero conferma ripetutamente la versione del fidanzato, anche quando viene esplicitamente minacciata. Le si dice: se tu confermi e lo scagioni sostanzialmente, ne pagherai le conseguenze sul piano certo professionale, sul piano viene minacciata, artistico. Certo, ecco, la Boschero conferma. E quindi ecco, un grande coraggio, e da lì effettivamente però avviene la sua marginalizzazione dal punto di vista artistico, ecco, e quindi lei si è trovata al centro di questa vicenda incredibile e dimenticata. Sì, com'è dimenticato l'aspetto di determinate zone geografiche che io definisco il Polesine delle Alpi, che è l'Occitania. Siamo ai confini tra Piemonte e Francia, tanti italiani sono dovuti migrare alla ricerca di un lavoro, tra cui la famiglia di questa ragazza occitana, Dominique Dominique Bosquerot, che si ritroverà, e qui è anche la parte iniziale del libro, in una Parigi già con le difficoltà di migranti, raccoglievano carbone per lo più, già con delle condizioni di vita molto molto precarie. Poi arriva l'occupazione nazista e poi ci sarà un motivo di crescita per la stessa Dominique, che con grande coraggio resta legatissima al territorio, tanto più che dalle vicende che vi abbiamo raccontato vi sarà anche un ritorno a questa vita. È una vita che comprende mille vite, Nando, comprende tanta emozione, comprende arte, cinema, ma anche musica. Allora, hai portato anche tu una piccola playlist e iniziamo con questo autore, Provincia clandestina di Lou Dupin. Ci puoi dire qualcosa di più? Io non lo conoscevo, tra l'altro, questo. Allora, è un gruppo musicale, musicale, si chiamano i Lou Dupin e sono capitanati da Sergio Berardo, che diciamo è il riferimento musicale pop del mondo occitano per quanto riguarda l'Occitania italiana, ed è i suoi concerti nel giro dell'Occitania italiana e anche francese sono seguitissimi. E questa canzone che ascoltiamo, che si intitola Provincia clandestina, che è cantata in occitano stretto, quindi non è che si capisca molto, ma però è molto bella. Sì, è molto bella e racconta di questo, e cioè racconta di quando a Cuneo, perché poi dire Occitania italiana fa chic, ma parliamo della provincia di Cuneo in grande parte, di quando a Cuneo più di 20 anni fa ci fu il concerto di Manu Chao. E il tono è molto ironico perché descrive il pubblico di quel concerto, che in gran parte si poté sentire rivoluzionario per una sera ascoltando Manu Chao, e poi quando è tornato a casa è ritornato in banca, al bar, nelle a fare sue le cose vesti, di tutti, certo, i giorni. Dal palafras, l'ottenente un turfando a vula mica sul lubras, con mare si slavadono, in la vota del fernet, che se spala buono nuovo, trovare in patisi vie. Calo iau, venga cun in manciau, ven mai de gente alla fiera di Garù. Calo iau, venga cun in manciau, in ghiaccio Virginio, per la rivoluzione. Da uscendi stu quebrando, e spari al gran burdel, se lo cazze della grande giugo della caisso del risparmio di Usitan, che risa come de paure d'un mas verso una drag. Calo iau, venga cun in mano ciao, ven mai de gen, che la fiera di Carù. Calo iau, venga cun in mano ciao, e mi asso a Virginio per la rivoluzione. La Bolivia piemonteso, ciò desplego i singolor, clandestin della veguida, tu pamaro, caulimur, su calata la Valmaira dalla lango da Carà. Grazie Nando Mainardi, grazie alla Pau che apprezza particolarmente questa musica, scrivendo al 333-180-9494. Allora, il quiz: siamo in Occitania, siamo al cinema e un film di Giorgio Diritti del 2005. Il protagonista nel titolo è il vento. E cosa fa il vento in questo caso? Mi date il titolo del film dove il vento fa un particolare movimento, mi scrivete questo movimento, cosa fa il vento? Fa anche rima nel film di Giorgio Diritti in Occitania, per avere la ragazza occitana di Nando Mainardi, Vita movimentata di Dominique Bosquerot, gran bel libro. Torniamo in diretta allora con Nando Mainardi e questa biografia dove, tra l'altro, ricordo ancora, abbiamo tra noi Dominique Boschero, anzi ho avuto fuori onda questa comunicazione da Nando stesso. Sei ancora qui in linea, Nando? Ci sei? Pronto? Mi senti, Nando? Io ci sono. Okay. Tu passi tu la vai a trovare ogni tanto, allora. Sì, siamo molto amici, anzi io passo da anni l'estate sempre in Occitania, quindi in questo caso in particolare in Valvaraita, a Frassino, che è questo paesino di 150-200 anime di cui è originaria Dominique Boschero e dove Dominique Boschero è tornata, perché dalla metà degli anni 70 si è rintanata in una baita a 1100 metri di altezza, isolata da tutto e sottraendosi a qualsiasi forma di proiezione pubblica. Sì. Degli ultimi 20-30 anni non esiste un'immagine di Dominique Boschero. E altra peculiarità: dal suo ritiro si è messa a fare la contadina, e quindi è questo stranissimo incrocio tra la diva di un tempo, una contadina montanara, nuovamente mette assieme tante cose ricorda la sua casa, è come un museo con i diversi oggetti del suo passato. Certo. Esposti, molto, molto affascinanti, insomma, e del resto provo a rispondere alla domanda, che nel tempo si è fatta molto più flebile, appunto perché è stata dimenticata e si è fatta dimenticare: che fine ha fatto Dominique Boschero? Ecco. La ragazza occitana, Nando Mainardi, Vita movimentata di Dominique Boschero, edizione Manni, il vincitore Jarno da Calderara, perché il vento fa il suo giro. Dino è arrivato secondo per un minuto, ancora una volta ringrazio chi ha giocato con il Breakfast Club al Voltiamo Pagina. Nando, io ti auguro una buona giornata e metto questo brano perché Bruno Martino è uno dei miei preferiti, anche se ecco, qui non abbiamo Bruno Martino come tu hai richiesto, abbiamo una voce femminile che dà sigla di conclusione a questo partecipato Voltiamo Pagina. Lei chi è esattamente? Allora, no, lei è un'altra grandissima. Sì. Ed è Caterina Valente. Sì. Una cantante italiana, ma che ha avuto un successo incredibile negli anni 60 negli Stati Uniti un po' in tutta Europa. Se vi capita, su YouTube la vedete per esempio eseguire una bossa nova al fianco di Dean Martin, capolavoro assoluto, sì, con ecco. Dean Martin, molto bello. Esatto, Nando, ci dobbiamo salutare, grazie per questa partecipazione. Un abbraccio a te, grazie. Un abbraccio a te e a tutta Radio Città Fujiko. Ciao, ciao, ciao. Nando, ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie. Lorenzo, hai conosciuto anche Nando Mainardi, vedi? Molto interessante. Sì, lui è un enciclopedico, biografo, ed è molto impegnato per non solo queste voci, tra l'altro molto illustri come Dominique Boschero, ma di percorso che abbiamo sentito e presentato per i 103.1. Jarno da Calderara vince La ragazza occitana, Vita movimentata di Dominique Boschero, che può ritirare alla libreria Ubic di Viernerio 27. Lorenzo, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti, grazie mille. Però, Willy. Sì, ci vediamo mercoledì. Ci vediamo, sì, okay, confermo, okay. Confermo. A domani in mostra con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao, ciao a tutti. Non pensiamo a niente, perché domani o chissà quando le cose potrebbero cambiare e i baci che tu non mi dai.